L'animale più pericoloso che conosca l'uomo, quello senza cuore che si definisce buono, che sperimenta su esseri indifesi, prova con gli esseri umani in pochi mesi, svuotereste carceri da esseri incompresi, pedofili, stupratori, razza di celebrolesi, amate chi vi ama senza essere sorpresi, aprite quelle gabbie con cuccioli di pochi mesi, creati per essere amati, non picchiati, ingannati, lottatori appena nati, senza addestramento, amiamo di default, fiducia cieca verso chi ti dice ti amerò, parleremo all'uomo col linguaggio dell'amore, per un domani migliore. Basato sulla fiducia aprite il vostro cuore, imparate da chi non porta rancore. Esagerare, io soffro per gli esseri umani che non sanno amare, a spasso con la vita che mi piega e non mi spezza, a prescindere mi fido di chi mi accarezza, sono stato fortunato in quanti lo saranno, cosa ho rischiato? Molti non lo sanno, ho visto l'inverno mare, prati in un letto, l'amore che ha buffato chi mi ha riportato sotto un tetto, ho visto un cuore che brucia in un petto, chi mi ha ridato amore ed un futuro perfetto, dimentico e per questo continuerò a dare amore perché porta amore, quindi perdonerò, io sono già che questa è la mia sorte, portando un lieto fine, l'amore oltre la morte, col mio migliore amico che molto spesso morde, è un essere umano ma ama anche se soffre.